Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'agenzia di rating Fitch abbassa il suo giudizio sulla Grecia, portandolo da CCC a singola C, mentre continua il dibattito con le reazioni ai termini dell'accordo che ha dato il via libera al nuovo prestito da 130 miliardi di euro per il salvataggio di Atene. Il confronto sul fondo salvastati europeo, in primo piano al G20 di Città del Messico, è un punto della situazione sul mercato dell'auto in Europa. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea e di questa puntata di Economia in Europa. Dopo una lunga attesa, la scorsa settimana è finalmente arrivato l'annuncio da parte dell'Eurogruppo del via libera al nuovo prestito alla Grecia da 130 miliardi di euro. La tensione su Atene però non sembra attenuarsi. Mercoledì 22 febbraio, alla luce dei termini dell'accordo con i creditori privati, l'agenzia di rating Fitch ha abbassato il suo giudizio sulla Grecia, portandolo da CCC a singola C, il gradino appena sopra il default. L'accordo con i creditori privati prevede un haircut nominale del 53,5%. Le misure dovrebbero consentire di ridurre il debito dall'attuale 163% del PIL al 120% entro il 2020. La struttura dell'accordo si basa sulla previsione di un ritorno alla crescita nel 2014, elemento che però suscita non poche perplessità fra i commentatori economici. Un accordo fatto per salvare la Grecia, ma secondo molti, soprattutto per scongiurare il contagio degli altri paesi periferici. Sentiamo a questo proposito il professor Fabio Sdogati, economista che insegna al Politecnico di Milano, intervistato proprio nella giornata di mercoledì da Sebastiano Barisoni. È così, ha ragione Wall Street Journal, abbiamo lasciato la Grecia nel suo brodo, ma in realtà abbiamo tranquillizzato per Spagna, Portogallo e Italia? Ma io non sono molto felice a dire che il Wall Street Journal ha ragione in generale, ma stavolta è decisamente così. Gli accordi si fanno in due e noi abbiamo imposto dei costi veramente pesantissimi alla Grecia, la quale li ha assorbiti in nome di una solidarietà e di una convinzione europea che è molto più forte di quanto non sia altrove, io credo. Cioè io non ho creduto e non credo, non ho creduto negli ultimi due anni mai per un momento a una concezione religiosa del debito per cui il debito può essere troppo alto, è una frase senza significato dire che il debito è troppo alto quando si parla di un governo. Perché? Quindi non abbiamo un problema di debito noi? No, noi abbiamo il debito di un governo è un problema politico, questo è una decisione politica. Io sento ragionamenti assolutamente incredibili, no? Da persone che hanno sempre sostenuto l'idea del libero mercato, che oggi vanno in giro dicendo ma se il governo avesse investito in infrastrutture, ma non scherziamo, avevano sempre detto che il governo non deve investire in infrastrutture, sono le aziende che devono preoccuparsi di fare investimenti produttivi con tassi di profitto più alti dell'interesse che pagano per prendere a prestito, i governi non fanno così, quindi… Però dico che ci sia la necessità a livello europeo di un piano infrastrutturale, cioè non è che possiamo buttare via tutta la politica eventualmente keynesiana, no? Anche i governi possono spendere, no? I governi debbono spendere. Io sono profondamente convinto, e lo scrivo e lo dico ovunque posso, che da questa crisi non si esce con l'austerità. C'è una cattiva teoria economica che si è affermata negli ultimi anni, che è quella che abbiamo chiamato dell'austerità espansiva, cioè che facendo i buoni, spendendo meno, risparmiando, in realtà si cresce. Queste sono fanfaluche, i governi devono spendere. Qual è il nostro problema? Che spendono i governi nazionali in maniera non coordinata e in maniera non convinta e non congiunta. Abbiamo bisogno di spesa europea. Cioè lei quindi sarebbe a favore anche di un aumento del debito attraverso gli eurobond, cioè di un debito europeo, emettendo obbligazioni europee, purché questo servisse a spendere, a fare infrastrutture per esempio, ma non solo. Ma decisamente sì, decisamente sì. Io un pezzo che ho scritto per oggi dicevo che la Grecia ha pagato il suo prezzo, adesso è ora di cominciare a pensare a piani di investimento a livello europeo che beneficino anche la Grecia e ovviamente gli altri paesi in difficoltà maggiore. Dunque, senta una cosa, però lei ha scritto anche una cosa un po' più forte, ha detto non è l'Europa che ha salvato la Grecia, è la Grecia che ha salvato l'Europa. Insomma, adesso me la spiega questa? Sì, beh, è un pochino estrema in effetti, però vede, quando si deve lottare contro un consenso bulgaro, per tornare a un aggettivo che lei citava con simpatia poc'anzi, allora uno deve assumere delle posizioni estreme. Sulla Grecia, la Grecia avrebbe, lei ricorda all'inizio di novembre, no? All'inizio di novembre il presidente Papandreou disse: benissimo, adesso mi avete scocciato, ovviamente non in questa forma, e io vado a sentire il mio popolo per vedere se vuol pagare sto debito alle condizioni che volete voi. Io ricordo benissimo un grande giornalista economico di un grande quotidiano di livello mondiale, il quale parlò di pruriti democratici del signor Papandreou. Allora, questo è il punto fondamentale, io credo, di questa storia, no? Le cose si fanno insieme. Che la Grecia avesse un debito molto forte rispetto al suo prodotto interno lordo, ma non lo dubito minimamente, come peraltro l'Italia, come peraltro tanti altri paesi, ma la Spagna aveva un 70% di debito su PIL. Poca roba. Poca roba. Poca roba, pochissima, eppure è andata sotto attacco speculativo immediatamente. Allora voglio dire, esiste un'Europa. Se noi guardiamo gli aggregati debito su PIL, l'Europa è messa meglio del Giappone. E degli Stati Uniti. E degli Stati Uniti. Non c'è dubbio. E della Gran Bretagna. Non c'è ma dubbio. Ma facciamolo sto passo in avanti, abbiamo aspettato troppo, questo ci stanno dicendo i mercati. Si è concluso nella notte fra domenica 26 e lunedì 27 febbraio il G20 a Città del Messico. In primo piano la decisione circa il fondo salva stati che passerà da 500 a 750 miliardi, ma quanto di questi soldi finirà in Europa verrà deciso in aprile. Prima di tutto emerge dai risultati del G20 l'Europa deve rafforzare le difese anticrisi, solo dopo ci si muoverà per aumentare le risorse stanziate dal Fondo Monetario Internazionale. Il G20 ha preso in ogni caso atto degli importanti progressi compiuti a livello europeo e si impegna per favorire la crescita e l'occupazione in un contesto congiunturale di crescita moderata per il 2012, sul quale gravano anche elevati rischi al ribasso come il prezzo del petrolio. Prendiamo il commento di Alessandro Merli, inviato per il Sole 24 Ore a Città del Messico, intervistato lunedì 27 febbraio da Sebastiano Barisoni. L'ultima volta che il G20 si era trovato era i primi di novembre a Cannes e la situazione era ben diversa da quella attuale. Eravamo quasi sull'orlo di un tracollo catastrofico dei mercati, l'Italia ci ricordiamo in che situazione era, tutta la zona euro era piuttosto traballante. Adesso un minimo di stabilità sui mercati, è stata ricostituita l'economia non in tutta l'Europa ma sicuramente negli Stati Uniti e altrove dà qualche segno di ripresa, come ha detto ieri anche il Presidente della Banca Centrale Europea Draghi, c'è l'incognita petrolio che tu hai già sottolineato, c'è questo problema che le riforme in alcuni paesi sono state fatte, la situazione sta migliorando, Italia, Spagna eccetera. Però c'è la preoccupazione di creare i cosiddetti firewall, cioè le barriere contro eventuale contagio che siano sufficientemente forti. Ora gli altri paesi del G20 hanno detto agli europei: prima vogliamo vedere che mettiate voi i soldi sul tavolo, il problema è anzitutto vostro, quindi prima, cioè nel mese di marzo, gli europei dovranno decidere cosa fare dei loro fondi salva stati, se aumentarli dagli attuali 500 miliardi di dollari a 750. Dopodiché gli altri sono disponibili a metterci un po' di soldi anche loro attraverso il fondo monetario, il Giappone ha già delle aperture, i grandi paesi emergenti, la Cina, il Brasile, eccetera, anche loro. Però diciamo, vogliono vedere l'impegno europeo, certo. Nel campo dell'Europa, che in fondo è l'epicentro di questa situazione è anche responsabile, e del resto alcuni dei paesi emergenti si chiedono perché dei paesi ricchi con un alto livello di reddito pro capite debbano essere salvati da dei paesi dove certo. Il reddito pro capite non hanno, più basso, sono emergenti, non hanno tutti i torti, cioè adesso non hanno tutti i torti, insomma, che la Cina, l'India vengono a salvare, diciamo, gli spagnoli, gli italiani, ma anche se vogliamo i francesi, no. Allora, capisco il punto di vista di chi appena si sta orora arricchendo, non ha generato debito per aver vissuto al di sopra delle sue possibilità, come nel caso nostro, ma anche greco, La Spagna è un caso un po' diverso. E veniamo invece, il plauso ce lo confermi comunque, soprattutto il ministro dell'economia americano, il segretario del tesoro Timothy Geithner, il plauso su Italia e Spagna, no? Ma diciamo che questo atteggiamento è stato abbastanza generalizzato. Il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde adesso ha detto la stessa cosa, e vari altri esponenti del G20 hanno notato che in effetti dei progressi anche molto significativi sono stati fatti, quindi direi che da questo punto di vista c'è stato un riconoscimento del G20 che in Italia qualcosa è mosso sia sull'aggiustamento dei conti pubblici e sia finalmente su qualche misura che dovrebbe rilanciare un po' la crescita. Ovviamente la situazione resta abbastanza vulnerabile, sottolinea il comunicato G20, però non c'è dubbio che appunto da novembre a oggi dei passi avanti sono stati fatti. In conclusione parliamo del mercato dell'auto in Europa e iniziamo a farlo ascoltando le parole di Sergio Marchionne, numero uno di Fiat. Noi avevamo intenzione di stabilire una politica industriale che dava l'opportunità agli stabilimenti italiani, se fossimo stati capaci a raggiungere un livello di produttività adeguata per competere a livello internazionale, di utilizzare quell'infrastruttura là per esportare in altri paesi, intorno al mondo, incluso l'America, in cui adesso noi abbiamo accesso attraverso la Chrysler. Quindi un'opportunità enorme che la Fiat si è creata andando in America, è disposta a mettere a disposizione del paese, ma lo deve fare con condizioni estremamente chiare. Non possiamo confonderci, io non posso continuare a perdere soldi in Europa e poi semplicemente per mantenere un sistema industriale in piedi che poi economicamente non ha base. Era questo appunto l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, che ha parlato delle condizioni di produzione in Italia direttamente da Bruxelles, dove ha incontrato la stampa in qualità di presidente della CEA, l'Associazione Europea dei Produttori di Auto. Ma le difficoltà della Fiat si possono inquadrare in un contesto problematico più generale che riguarda tutto il mercato dell'auto europeo. Sentiamo a tal proposito Andrea Malan del Sole 24 Ore. Ci sono ancora moltissime incognite, la più grossa delle quali è forse quella che Marchionne stesso ha ribadito oggi, cioè il mercato europeo va malissimo, cioè va bene esportare negli Stati Uniti, però quello che è successo in questi anni alla Fiat, più che ad altri costruttori, diciamo un po' anche alla Peugeot, è che c'è stato un crollo di quote in Europa e un crollo di vendite in Europa dovuto all'affossamento del mercato italiano ed europeo in generale. Sicuramente ci sono stati dei cambi di rotta derivanti all'inizio dai problemi sindacali, poi dai problemi finanziari. Il problema è che molti concorrenti non stanno fermi e questo spiega in parte la perdita di quote di mercato. Direi che quest'anno, al di là dei problemi che ci saranno, sicuramente sia Fiat che Peugeot che Opel, diciamo tutti i generalisti, i costruttori che non hanno modelli di lusso di gamma alta in Europa, sono destinati a soffrire, Fiat in particolare perché il mercato italiano è uno di quelli messi peggio. E quindi la tentazione per Marchionne sarà anche quella di, per evitare un deterioramento dei conti eccessivo, sarà di risparmiare ancora sugli investimenti, quindi il rischio che vengano ancora rinviati gli investimenti sui prodotti, generando poi un circolo vizioso, perché è ovvio che con prodotti che invecchiano tenere le posizioni sul mercato è sempre più difficile. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.